Capitolo 7. Nei primi mesi del 1910 il governo rieletto fu impegnato nello sforzo di mantenere il controllo della situazione politica. Si coalizzò con il partito irlandese, i cui leader, se si fosse data una spinta al progetto di legge sulla Home Rule, erano disposti ad appoggiare la previsione di bilancio. Non venne dato alcun annuncio pubblico di un'alleanza con il partito laburista, che i Reardi, al congresso annuale del partito, dichiarò che avrebbero continuato a restare indipendenti dal governo. Questo era importante perché significava che il Partito Laburista, piuttosto che entrare in un'intesa che lo vincolasse a sostenere tutte le misure del governo, sarebbe stato libero di opporsi al governo nel caso in cui continuasse a negare un progetto di legge sul diritto di voto. Altre cose si combinavano per darci la speranza che il vento stesse girando a nostro favore. Ci fu riferito che il governo era stanco della nostra opposizione ed era disposto a chiudere la disputa nell'unica maniera possibile, a patto che lo facesse senza dare l'impressione di essersi costretto. Da parte nostra, quindi, all'inizio di febbraio dichiarammo una tregua a tutte le attività militanti. Il Parlamento si riunì il 15 febbraio e il discorso del re fu letto il 21 febbraio. Nel discorso non fu fatta menzione del suffragio femminile. Nei parlamentari fuori dal governo ottennero un posto nella votazione per poter chiedere un progetto di legge sul suffragio. Tuttavia, dal momento che la situazione era tesa e anomala, a causa della proposta di abolizione del potere di veto dei Lord, decidemmo di restare in attesa per un po'. Ci si aspettava che si dovesse arrivare presto a nuove elezioni, prima che la contesa tra le due Camere del Parlamento fosse risolta, cosa che sarebbe senz'altro accaduta non più tardi di giugno, ma solo per l'inattesa morte di re Edoardo VII. Questo evento ebbe l'effetto di sospendere la situazione tesa. La morte del re fu l'occasione per un temporaneo ammorbidimento delle ostilità e generò una certa disponibilità al compromesso su questioni travagliate. Quella dell'emancipazione delle donne venne riconsiderata in questo nuovo spirito e in maniera del tutto lodevole per i membri che avevano dato origine al movimento. Un comitato strettamente apartitico per il suffragio femminile era stato istituito nella Camera dei Comuni nel 1887, principalmente su iniziativa della signorina Lydia Baker, che ho già nominato come la Susan B. Anthony del movimento suffragista inglese. Nel 1906, per ragioni che non è necessario precisare, il comitato originario era stato fatto decadere e i sostenitori liberali del suffragio femminile avevano dato vita a un comitato per conto loro. Ora, in questo periodo di sensazioni positive, su suggerimento di alcuni membri capeggiati dal signor M.B. Brailsford, che non faceva parte del Parlamento, fu creato un altro organismo apartitico, a cui si diede il nome di Conciliation Committee. Il suo obiettivo dichiarato era quello di radunare tutte le forze suffragiste presenti nella Camera dei Comuni, a prescindere dall'affiliazione partitica, e di formulare un provvedimento sul suffragio che potesse farsi strada proprio grazie all'unione delle forze. Il conte di Lytton accettò la presidenza del comitato e Brailsford fu nominato segretario. La commissione era composta da 25 liberali, 17 conservatori, 6 nazionalisti irlandesi e 6 membri del Partito Laburista. Tra grandi difficoltà, il comitato si adoperò per stilare un progetto di legge che fosse in grado di conquistare il sostegno di tutti i settori della Camera. I conservatori insistevano per un progetto moderato, mentre i liberali si preoccupavano di fare in modo che il progetto non desse ulteriore potere alle classi dei possidenti. Il progetto di legge originario, abbozzato da mio marito, il dottor Pankhurst, che concedeva il voto alle donne nella stessa misura degli uomini, fu abbandonato e un nuovo progetto di legge fu strutturato seguendo la linea dell'esistente legge municipale sul voto. La base della rappresentanza comunale è l'occupazione e il Conciliation Bill, nella prima stesura, proponeva di estendere il voto parlamentare alle donne proprietarie di immobili e alle donne che occupavano uffici pagando un affitto dalle 10 sterline in su. Fu stimato che il 95% delle donne che avrebbero ottenuto il diritto di voto, secondo questo progetto di legge, erano proprietarie di immobili. Questo in Inghilterra non implica che una persona occupi una casa intera. Chiunque abiti anche in una sola stanza su cui lui o lei esercita il pieno controllo è considerato proprietario. Il testo della Conciliation Bill fu sottoposto a tutte le associazioni suffragiste e alle altre organizzazioni femminili, e e fu accettato da tutte. Il nostro foglio ufficiale scrisse nell'editoriale: «Noi della Women Social and Political Union siamo pronte a condividere questa azione comune e pacifica. Il nuovo progetto di legge non ci dà tutto quello che vogliamo, ma siamo favorevoli se lo sono anche gli altri». Pareva certo che una schiacciante maggioranza della Camera dei Comuni fosse favorevole al progetto di legge e fosse pronta a votare per trasformarlo in legge. Benché sapessimo che non poteva passare a meno che il governo non desse il suo pieno consenso, speravamo che i leader di tutti i partiti e la maggioranza dei loro sostenitori stringessero un'intesa per far passare il progetto. Questo tipo di comune accordo è raro nel Parlamento inglese. Ma è così che sono stati presi dei provvedimenti molto importanti e combattuti. L'estensione del diritto di voto nel 1867 rientra in questi casi. Il Conciliation Bill fu presentato alla Camera dei Comuni il 14 giugno 1910 dal signor D.J. Shackleton e fu accolto con straordinario entusiasmo. I giornali rimarcarono il senso della realtà che l'atteggiamento della Camera aveva dimostrato verso il progetto. Era chiaro ormai che i parlamentari avevano capito che non si trattava più di una questione accademica da affrontare semplicemente con dibattiti e scambi di opinioni, ma di una misura concepita per attraversare tutto l'iter e poi essere trascritta nella legislazione inglese. L'entusiasmo della Camera si diffuse per tutto il regno. I medici professionisti inviarono una memoria in suo favore, firmata da oltre 300 delle personalità, uomini e donne, più illustri della categoria. Mandarono una memoria anche scrittori, sacerdoti, assistenti sociali, artisti, attori e musicisti. La Women's Liberal Federation si riunì e deliberò all'unanimità di chiedere al primo ministro di concedere ogni agevolazione al progetto di legge. Alcuni membri progressisti della federazione proposero anche di inviare di tanto in tanto una delegazione alla Camera dei Comuni recante la risoluzione, ma la proposta fu rigettata per il tono eccessivamente militante che presentava. Fu inviata una richiesta di colloquio con il signor Asquith, che promise di ricevere al più presto i rappresentanti sia della Women's Liberal Federation sia della National Union of Women's Suffragist Societies. La delegazione congiunta fu ricevuta da Asquith il 21 giugno e Lady M'Laren, in rappresentanza della Women's Liberal Federation, si rivolse al leader del suo partito in modo schietto. Disse, tra le altre cose, se respingete la nostra richiesta, saremo costretti a dire al Paese che voi, che siete contrari al veto della Camera dei Lord, state ponendo un veto alla Camera dei Comuni, rifiutandovi di consentire una seconda lettura di questo progetto di legge. Asquith replicò cautamente che non poteva decidere da solo su una questione tanto delicata, ma doveva consultarsi con il Consiglio dei Ministri, la maggioranza del quale ammise era suffragista. La loro decisione, aggiunse, sarebbe stata comunicata nella Camera dei Comuni. La WSPU organizzò una manifestazione a supporto del Conciliation Bill, la più grande mai realizzata fino a quel momento. Fu un evento nazionale, anzi internazionale, a cui parteciparono tutti i gruppi suffragisti e la massa era così imponente che il corteo impiegava 1 ora e mezza per superare un dato punto. In testa marciarono 617 donne, vestite di bianco e tenendo in mano lunghi bastoni argentati con una grossa freccia in punta. Erano le donne che avevano subito la carcerazione per la causa e per tutto il percorso di marcia ricevettero un affettuoso tributo dal pubblico. L'immensa Albert Hall, la più grande sala concerti d'Inghilterra, ancorché strappiena dalla buca dell'orchestra fino all'ultima galleria, non era abbastanza ampia da contenere tutte le dimostranti. In mezzo a tanta gioia ed entusiasmo, Lord Lytton tenne un commovente discorso in cui si dimostrava fiducioso per un rapido avanzamento del progetto di legge. Le donne, dichiarò, avevano tutte le ragioni di credere che la loro emancipazione fosse ormai a portata di mano. Era vero che i tempi per far passare un progetto di legge sul suffragio erano maturi, non era mai stato così evidente in 50 anni, poiché il momentaneo buco legislativo lasciava il campo aperto a un progetto di riforma elettorale. Eppure, quando alla Camera dei Comuni fu chiesto al primo ministro se intendesse concedere ai parlamentari una prima opportunità per avviare la discussione, la risposta non fu incoraggiante. Il governo, disse Asquith, era disposto a dare spazio al dibattito e alle divergenze sulla seconda lettura prima del termine della seduta, ma non poteva concedere ulteriori agevolazioni. Affermò in tutta franchezza che personalmente non voleva che il progetto passasse, ma il governo si era reso ormai conto che la Camera dei Comuni doveva avere un'opportunità, se questo era il suo desiderio ponderato, di affrontare concretamente l'intera questione. Questa criptica affermazione fu presa dalla maggioranza dei suffragisti, dalla stampa e dal pubblico in generale, come indice che il governo si stava preparando a piegarsi all'indiscutibile volontà della Camera dei Comuni di far passare il progetto di legge. Ma la WSPU era dubbiosa. Le osservazioni del signor Asquith erano ambigue e potevano essere interpretate in diversi modi. Potevano voler dire che si stava preparando ad accettare il verdetto della maggioranza e a lasciare che il progetto attraversasse tutto l'iter. E quella sarebbe stata l'unica maniera di concedere alla Camera l'opportunità concreta di occuparsi dell'intera questione. D'altro canto, il signor Asquith poteva intendere che avrebbe lasciato passare il progetto attraverso le fasi del dibattito per poi soffocarlo in commissione. Temevamo la slealtà, ma considerato l'annuncio che il governo aveva dato, fissando le date dell'11 e del 12 luglio per il dibattito sulla seconda lettura, conservavamo un atteggiamento di tranquilla attesa. Si era stabilito l'aggiornamento del Parlamento per il 26 luglio e se il progetto di legge fosse stato votato a maggioranza il 12, ci sarebbe stato abbastanza tempo per accompagnarlo nelle fasi conclusive dell'iter. Quando un progetto di legge supera la seconda lettura, viene di solito inviato a una commissione speciale che si riunisce, mentre la Camera dei Comuni è occupata in altre questioni e quindi la fase della commissione può procedere senza speciali agevolazioni. Il progetto di legge non torna alla Camera finché non si raggiunge la fase del verbale e a quel punto avviene la terza e ultima lettura. Dopo quella il progetto approda alla Camera dei Lord. Tutta questa procedura richiede al massimo una settimana di tempo. Un progetto di legge può essere indirizzato a una commissione bicamerale e in questo caso non può essere portato alla fase della commissione a meno che non ottenga agevolazioni speciali. Sul nostro giornale e in molti discorsi pubblici auspicammo che i parlamentari votassero per inviare il progetto a una commissione speciale. Alcuni giorni prima che il progetto raggiungesse la seconda lettura, girò voce che il signor Lloyd George stava per esprimersi contrario, ma ci rifiutammo di dar credito a queste chiacchiere. Per quanto in varie occasioni si fosse dimostrato scorretto nei confronti delle donne, Lloyd George si era sempre atteggiato a convinto sostenitore del suffragio femminile. E non potevamo credere che si sarebbe rivolto contro di noi proprio all'ultimo momento. Winston Churchill, il cui discorso alle donne di Dundee ho citato in un precedente capitolo, era visto dai promotori del progetto come uno su cui contare, visto che in più di un'occasione aveva espresso simpatia per i suoi contenuti. Ma quando il dibattito si aprì, scoprimmo entrambi questi ardenti suffragisti schierati contro il progetto di legge. Il signor Churchill, dopo aver fatto un convenzionale discorso antisuffragista sostenendo che le donne non avevano bisogno del voto e che non avevano nulla da reclamare, attaccò il Conciliation Bill perché la categoria di donne se ne sarebbe stata emancipata, non gli stava bene. Alcune donne, conveniva, dovevano avere accesso al voto e pensava che la cosa migliore da fare era selezionare alcune delle migliori donne di tutte le classi, in base ai possedimenti, all'educazione e al reddito. Queste speciali concessioni di voto sarebbero state accuratamente bilanciate, in modo da non privilegiare indebitamente il voto della proprietà rispetto al voto del diritto. Non si poteva immaginare una proposta più fantasiosa e meno capace di incontrare il favore della Camera dei Comuni. La seconda obiezione di Churchill al progetto di legge fu che era antidemocratico. A noi sembrava che qualsiasi cosa fosse ben più democratica della fantasiosa concessione del voto da lui proposta. Lloyd George si disse d'accordo con tutto quello che aveva detto Churchill, tanto le cose rilevanti quanto le irrilevanti. Fece la stupefacente asserzione che la Conciliation Committee, che aveva abbozzato il progetto di legge, era un comitato di donne che si riuniva fuori dalla Camera e che questo comitato aveva detto alla Camera dei Comuni non solo che doveva votare a favore del progetto di legge sul suffragio femminile, ma anche voi dovete votare per una forma particolare su cui noi siamo d'accordo e non vi permetteremo di deliberare su nessun'altra forma. Naturalmente queste affermazioni erano del tutto false. Il Conciliation Bill era stato abbozzato da uomini ed era stato presentato perché il governo si era rifiutato di inoltrare un provvedimento suo. I suffragisti sarebbero stati solo contenti se il governo avesse deliberato una forma di suffragio più ampia, Dal momento che si era rifiutato di deliberarne una qualsiasi, era stato presentato questo progetto di legge privato. Questo fatto fu anticipato durante il discorso del signor Lloyd George. Si era insistito, disse lui, che questo progetto di legge fosse meglio che niente, ma perché doveva essere quell'alternativa? Qual è l'altra? Chiese un parlamentare, ma Lloyd George eluse la domanda con un distratto: Beh, al momento non saprei dirlo. Poi disse: Se i promotori di questo progetto di legge dicono che considerano la seconda lettura come una semplice affermazione del principio del suffragio femminile, e se promettono che quando ripresenteranno il progetto gli daranno una forma che consentirà alla Camera dei Comuni di avanzare emendamenti, sia restrittivi sia estensivi, allora sarò felice di votare a favore. Philip Snowden, replicando a questa affermazione, disse: Ritireremo questo progetto di legge se il Right Honorable, a nome del governo o il primo ministro in persona, si impegneranno a concedere a questa Camera l'opportunità di discutere e portare a termine un'altra stesura del progetto sul diritto di voto. Se non otterremo questa promessa, allora proseguiremo con questo progetto di legge. Il governo non ritenne di dover rispondere su questo punto e il dibattito andò avanti. Si succedettero 39 interventi, con il primo ministro che nel suo discorso mostrò chiaramente l'intenzione di usare ogni mezzo in suo potere per impedire al progetto di diventare legge. Cominciò dicendo che un provvedimento sul voto non sarebbe mai stato inoltrato alla Commissione speciale, ma a una bicamerale. Disse inoltre che le sue condizioni, cioè che le donne mostrassero di essere la maggioranza nel desiderare il voto oltre ogni ragionevole dubbio e che il progetto di legge fosse democratico nei contenuti, non erano state rispettate. Quando fu comunicata l'informativa, si vide che il Conciliation Bill aveva superato la seconda lettura, con una maggioranza di 109 voti, maggioranza ben più ampia di quella ottenuta dal bilancio del governo dalla risoluzione della Camera dei Lord. Di fatto, nessun provvedimento durante quella legislatura aveva ottenuto una maggioranza tanto ampia. 299 membri votarono a favore, 190 contro. Poi fu affrontato il tema di quale commissione avrebbe dovuto occuparsi del progetto di legge. Esquit aveva dichiarato che tutti i progetti di legge sul voto dovevano essere presentati alla commissione bicamerale e quindi nell'informativa invitava i sinceri amici del progetto a inviarlo lì. Alcuni ritenevano che questo percorso sarebbe stato dannoso, ma temevano di attirarsi l'ira del primo ministro. Ovviamente tutti gli antisuffragisti votarono all'unanimità e pertanto il progetto di legge finì alla bicamerale. Anche in quel caso il progetto avrebbe potuto guadagnare la lettura conclusiva. La Camera aveva tutto il tempo che voleva, dal momento che tutto il lavoro legislativo più rilevante era virtualmente fermo a causa dell'impasse tra Lord e Comuni. In seguito alla morte del re, era stata organizzata una riunione dei leader conservatori e liberali sulla materia in questione, ma l'esito in questa riunione non era ancora stato comunicato. Perciò il Parlamento aveva del lavoro da svolgere. Fu esercitata la massima pressione possibile per indurre il governo a dare la precedenza alla Conciliation Bill. Si tennero molti incontri a supporto del progetto di legge. La Men's Political Union for Women's Enfranchisement, la Men's League for Women's Suffrage e il Conciliation Committee si erano radunati congiuntamente a Hyde Park. Alcuni suffragisti della vecchia scuola avevano effettuato un'altra grande assemblea a Trafalgar Square. La WSPU, il 23 luglio, anniversario del giorno del 1867 in cui i lavoratori in agitazione per il voto erano stati strappati via dalle inferriate di Hyde Park, tenne un'altra grande manifestazione sul posto. Fu ripulita un'area di 1 chilometro quadrato, vennero eretti 40 palchi e due grandi cortei marciarono da est a ovest fino al luogo del raduno. Molte altre associazioni suffragiste collaborarono con noi in questa occasione. Lo stesso giorno del raduno, Esquit comunicò a Lord Lytton che intendeva negare altro tempo al progetto di legge nel corso di quella sessione. Chiunque fosse ancora fiducioso che si potesse convincere il governo a dare giustizia alle donne, riversò ogni speranza nella seduta autunnale del Parlamento. Varie risoluzioni per spingere il governo a dare la precedenza al progetto di legge durante l'autunno furono inviate non solo dalle associazioni suffragiste, ma anche da molte organizzazioni di uomini. Il Consiglio Comunale di 38 città, tra cui Liverpool, Manchester, Glasgow, Dublino e Cork, mandarono risoluzioni a questo scopo. Il Consiglio dei Ministri fu cinto d'assedio, con le richieste di ricevere delegazioni di donne, e dato che il Paese era in procinto di affrontare una nuova elezione generale e il Partito Liberale voleva assicurarsi l'appoggio delle donne, tali richieste non potevano essere ignorate. Asquith, ai primi di ottobre, ricevette una delegazione di donne della sua stessa circoscrizione di East Fife, ma tutto quello che ebbe da dire fu che il progetto di legge non poteva essere presentato quell'anno. E l'anno prossimo? Domandarono e lui rispose seccamente: aspettate e vedrete. Era stato estremamente difficile durante quei giorni tribolati fare in modo che i membri della WSPU rispettassero la tregua. Quando divenne perfettamente chiaro che il Conciliation Bill era destinato all'insuccesso, fu nuovamente dichiarata guerra. A una grande assemblea all'Albert Hall il 10 novembre fui io stessa a lanciare il grido di battaglia. Dissi, proprio perché volevo che l'intera questione fosse ben compresa dal pubblico, così come dalle nostre associate: questo è l'ultimo tentativo costituzionale della Women's Societal and Political Union per garantire la trasformazione del progetto in legge. Se il progetto, malgrado tutti i nostri sforzi, viene affossato dal governo, allora, prima di tutto, devo dire che la tregua è finita. Se siamo d'accordo sul fatto che non abbiamo il potere di costringere la Camera dei Comuni a dedicare del tempo al nostro provvedimento, allora il nostro passo successivo sarà questo. Lo togliamo dalle vostre mani, visto che non volete aiutarci, e riprenderemo a fare campagna da sola. Un'altra delegazione, dichiarai, doveva andare alla Camera dei Comuni a portare una petizione al Primo Ministro. L'avrei guidata io stessa e se nessuno mi avesse seguito ci sarei andata da sola. Immediatamente per tutta la sala le donne saltarono in piedi e gridarono: signora Pankhurst, io vengo con lei! Vengo anch'io, vengo anch'io! E lo sapevo che le nostre coraggiose donne erano pronte come sempre a dare tutto, tutta la loro vita se necessario per la causa della libertà. La seduta autunnale fu convocata per venerdì 18 novembre e il signor Asquith annunciò che il Parlamento sarebbe stato aggiornato al 28 novembre. Mentre il suo discorso andava avanti, 450 donne in piccoli gruppi, per attenersi strettamente alla legge, si misero in marcia dalla Caxton Hall e dagli altri quartieri generali della WSPU. Raccontare la storia di quell'orribile giorno, Black Friday, così come vive nella nostra memoria, descrivere ciò che accadde alle donne inglesi su richiesta ufficiale del governo inglese è un compito difficile. Cercherò di raccontarlo nella maniera più semplice e accurata possibile. Sono consapevole che i fatti nudi e crudi, narrati senza tanti giri di parole, potranno generare incredulità. Ricordo che il paese era alla vigilia delle elezioni generali e che il Partito Liberale aveva bisogno dell'aiuto delle donne. Questo fatto rendeva l'arresto e la carcerazione in massa di un gran numero di donne che stava reclamando il passaggio della Conciliation Bill estremamente inopportuni dal punto di vista del governo. Anche le Women's Liberal Federation volevano il passaggio del Conciliation Bill, sebbene non fossero disposte a battersi per la causa. Ciò che il governo temeva erano che le donne liberali fossero spinte dalle nostre sofferenze a ritirare il loro appoggio elettorale al partito. Così il governo studiò un piano per cui le donne dovevano essere punite, dovevano essere respinte e sconfitte nel loro proposito di raggiungere la Camera, ma non dovevano essere arrestate. Fu evidentemente dato l'ordine alla polizia di essere presente per le strade, di sballottare le donne da un agente all'altro in diviso no, di trattarle in modo talmente rude da terrorizzarle e indurle a fare marcia indietro. Dico che fu dato quest'ordine e ne è la riprova il fatto che innanzitutto nelle precedenti occasioni la polizia aveva prima tentato di respingere le delegazioni e quando le donne avevano insistito a voler avanzare le avevano arrestate. A volte i singoli poliziotti si erano comportati in modo cattivo e crudele nei nostri confronti, ma niente al confronto con l'unanime e totale brutalità che dimostrarono al Black Friday. Il governo molto probabilmente sperava che la violenza della polizia verso le donne venisse imitata dalla folla, ma la folla si rivelò invece straordinariamente amichevole. Spintonò e si dibatté per farci strada, e malgrado tutti gli sforzi della polizia, la mia piccola delegazione riuscì effettivamente a raggiungere l'uscio della Stranger's Entrance. Facemmo quei gradini tra le acclamazioni della moltitudine che affollava le strade e restammo lì ferme per ore, a guardare in basso una scena che spero di non dover mai più rivedere. A intervalli di 2 o 3 minuti, gruppetti di donne comparivano in piazza e cercavano di raggiungerci alla Stranger's Entrance. Recavano piccoli cartelli con motti quali Esquit ha bocciato il nostro progetto di legge. Dove c'è un progetto di legge c'è speranza. Le donne batteranno il rifiuto di Esquit e cose del genere. La polizia strappò dalle loro mani questi cartelli e li fece a pezzi. Poi alzò le mani sulle donne e le sbatté letteralmente da un uomo all'altro. Alcuni poliziotti usarono i pugni, colpendo le donne in faccia, sul torace, sulle spalle. Vide una donna picchiata 3 o 4 volte in rapida successione, finché non cadde a terra mezza svenuta contro il marciapiede e fu portata via in condizioni gravi da qualche premuroso estraneo. Di minuto in minuto la battaglia si faceva sempre più aspra, man mano che le donne si ammassavano sulla scena. Le donne, molte delle quali erano eminenze nell'arte, nella medicina e nella scienza, donne di fama europea, subirono trattamenti che non sarebbero stati riservati neppure ai criminali incalliti, e tutto solo per l'oltraggio di aver voluto esercitare il diritto di presentare una petizione pacifica. La battaglia si protrasse per circa un'ora, con donne in numero sempre maggiore che cercavano di farsi strada spingendo contro la polizia e avvicinandosi ai gradini della camera. Poi fu chiamata la polizia a cavallo per rimandare indietro le donne, ma le donne, determinate fino alla disperazione, impavide davanti agli zoccoli dei cavalli e alla tremenda violenza della polizia, non riuscirono al loro intento. E adesso la folla cominciava a mormorare. La gente si chiedeva perché le donne venissero picchiate, perché se stavano infrangendo la legge non venissero arrestate, perché se non stavano infrangendo la legge non era permesso loro di avanzare senza essere molestate. A lungo, quasi per 5 ore, la polizia continuò a spintonare e picchiare le donne, con la folla che diventava sempre più turbolenta in loro difesa. Alla fine la polizia fu costretta a operare degli arresti. 119 persone, 115 donne e 4 uomini, contuse e mezzo soffocate e con varie ferite, vennero arrestate. Mentre tutto questo succedeva all'esterno della Camera dei Comuni, il primo ministro si ostinava a rifiutarsi di ascoltare i consigli dei parlamentari più assennati e amanti della giustizia, che Erdi, Sir Alfred Mondale e altri invitarono Esquit a ricevere la delegazione e Lord Castlereagh fu sul punto di presentare un emendamento a un progetto del governo, un'altra proposta che avrebbe costretto il governo a dare la precedenza immediata alla Conciliation Bill. Venimmo a sapere quello che stava accadendo e io rivolsi ogni sforzo per cercare di spingere degli amici parlamentari a schierarsi in favore dell'emendamento di Lord Castlereagh. Indicai loro la brutale lotta che stava andando in scena nella piazza e li implorai di tornare dentro e di dire agli altri di fare qualcosa per fermarla. Ma angosciati com'erano, mi assicurarono che l'emendamento non aveva la minima possibilità di passare. Non c'è un solo uomo nella Camera dei Comuni, gridai, che possa schierarsi dalla nostra parte, che possa far capire alla Camera che l'emendamento deve andare avanti. Beh, forse qualcuno c'era, eppure, eccetto 52 parlamentari, tutti gli altri mettevano la fedeltà al partito davanti al loro essere uomini. E poiché la proposta di Lord Castlereagh significava censurare l'operato del governo, si rifiutarono di appoggiarla. Ciò non avvenne, tuttavia, perché il signor Esquit aveva fatto ancora una volta ricorso alla sua furba strategia di promettere azioni future. In questa circostanza, promise di rilasciare una dichiarazione ufficiale per conto del governo il martedì seguente. Il mattino dopo i suffragisti detenuti furono chiamati in giudizio al tribunale di polizia, o meglio vennero lasciate ad aspettare fuori dall'aula mentre il signor Muscat, incaricato dall'udienza per conto del commissario capo della polizia, spiegava all'esterrefatto magistrato che aveva ricevuto l'ordine dal segretario di Stato di congedare tutti i detenuti. Il signor Churchill fu dichiarato, aveva preso attentamente in esame la questione e aveva deciso che non ci sarebbe stato alcun vantaggio pubblico nel procedere con l'accusa e di conseguenza non esisteva motivo a procedere contro i detenuti. Risa smorzate. E secondo i giornali, urla di sdegno si levarono dai presenti in aula e una volta riportata la calma, i detenuti furono fatti entrare a gruppi e venne loro comunicato che erano liberi. Il martedì seguente, la WSPU tenne un'altra riunione al Parlamento delle donne alla Caxton Hall per ascoltare le notizie che arrivavano dalla Camera dei Comuni. Il signor Asquith disse: il governo, se sarà ancora in carica nella prossima legislatura, concederà il permesso a procedere con un progetto di legge sul diritto di voto, così come strutturato, a patto di consentire che sia data la libertà di emendarlo. Non promise che ciò sarebbe avvenuto nel primo anno della nuova legislatura. Avevamo richiesto la precedenza per la Conciliation Bill e la promessa di Asquith era troppo ambigua e vaga per assicurarci. Il Parlamento, che ormai stava per essere sciolto, era durato 10 mesi scarsi. Il prossimo, magari, non sarebbe durato di più. Perciò la promessa di Asquith, come al solito, non significava assolutamente nulla. Dissi alle donne: vada da Downing Street, andiamo, venite tutte, e ci andammo. A Downing Street trovammo un piccolo schieramento di polizia. Passammo con facilità attraverso le linee. Ed eravamo pronte a invadere la residenza del primo ministro, se non fossero arrivati rinforzi. Comparve lo stesso signor Asquith inaspettatamente e, come pensavamo, al momento opportuno. Prima che potesse rendersi conto di ciò che stava accadendo, si ritrovò circondato dalle suffragette infuriate. Fu abbondantemente insultato e si disse poi strattonato per bene, prima di essere deliberato dalla polizia. Mentre il suo taxi scappava via, un oggetto colpì uno dei finestrini, mandandolo in frantumi. Un altro ministro, il signor Birrell, capitò involontariamente in mezzo alla baruffa e sono costretta ad ammettere che fu strattonato piuttosto malamente. Ma non è vero che si ruppe una gamba a causa delle donne. Nella fretta di saltare sul taxi subì una leggera distorsione alla caviglia. Quella settimana furono arrestate 160 suffragette, ma tutte, tranne quelle accusate di aggressione o di aver rotto finestre, furono rimesse in libertà. Questa sorprendente mossa del tribunale dimostrò due cose. Primo, quando il segretario di Stato dichiarò di non essere in alcun modo responsabile dell'accusa e della condanna dei suffragisti, disse una colossale menzogna. Secondo, il governo si era pienamente reso conto che fosse una pessima strategia elettorale mandare in carcere delle donne di grande personalità che stavano lottando per i loro diritti di cittadine.